Salve a tutti cari amici e benvenuti alla puntata numero 31 di Vagabondo in giro per il mondo. Anche oggi, mercoledì 17 maggio dell'anno politico 2017, al microfono per voi il vostro speaker vagabondo Fumino. E questa settimana, ahimè, mi sono veramente accorto di una cosa che non ci avevo mai pensato prima, di una cosa di cui non avevo mai avuto l'idea. È assolutamente vero, è assolutamente liberatorio, secondo me, secondo quello che ho capito in questa settimana, che è molto molto bello, molto molto liberatorio e preferibile pesci in faccia a chi se li merita. E sono finiti i tempi del buonismo, sono finiti i tempi del politically correct, perché tutto questo buonismo per forza essere buoni sotto tantissimi punti di vista. Ma vi siete resi conto che c'è chi ci guadagna su, chi volontariamente sfrutta la bontà delle persone, perché ci sono persone buone? Sì, ma questo che io dico, che sto dicendo, non è che si deve smettere di essere buoni, è che è molto molto meglio se i buoni diventano cattivi con chi se lo merita. Come diceva in un film il grande Bud Spencer, non c'è cattivo più cattivo di un buono quando diventa cattivo. E siccome anche in quel tipo di film dei messaggi in qualche modo c'erano, piccoli, chiaramente in altri lavori sono messaggi diversi, messaggi di un'altra portata, e va benissimo così, sono anche molto più riconoscibili. Questi sono battute, la battuta di un film fa ridere, questa battuta sì, ma pensateci bene, non c'è cattivo più cattivo di un buono quando diventa cattivo. È normale, perché è normale anche per i buoni essere cattivi con chi se lo merita. Volevo dire, le sacre scritture ce lo insegnano, io non voglio toccare la religione, perché ci mancherebbe, non è nel mio interesse, però le sacre scritture ce lo insegnano, amici miei, quanto è vendicativo il nostro Signore, quanto lo è, tantissimo, tantissimo. Cioè, di conseguenza ci sarà una persona o un'entità o qualunque cosa sia più buona del nostro Signore? Credo di no. Cioè, è diciamo la bontà che noi proprio abbiamo come riferimento. Questo è quello, è l'essere buono. Però l'essere buono, attenzione, perché non è essere buono a coglione. Infatti nostro Signore è mica il coglione, nostro Signore è giusto. E allora cosa succede? Con chi è cattivo anche lui non è buono, anche lui perdona ma non è buono. Bene, allora il perdono sì, perché è molto importante. Ad esempio, se una persona ti fa qualche sgarbo, torniamo via dall'argomento religione, perché evidentemente non è quello il mio interesse, ma se una persona ti fa uno sgarbo, se una persona ti fa bene sì, e poi si ripresenta e ti fa un po' una, quella che si definisce una supercazzola, per rifarti un altro sgarbo dello stesso tipo. E come si dice, anche lì c'è un proverbio, sapete che a me i proverbi mi piacciono assai e che mi stimolano i pensieri e le opinioni. Bene, il proverbio come dice, nemmeno l'asino quando è caduto una volta nella trappola ci cade la seconda. Bene, e allora nemmeno noi dobbiamo cadere due volte nella stessa tranello. Se una persona ti manca di rispetto, ma non roba così da film americano, non roba, cioè se una persona ti fa un qualcosa di grosso, di veramente irrispettoso, irriguardoso nei tuoi confronti, nei confronti della tua persona e tutte queste cose qua, e poi pretende anche magari di rifarsi un'altra volta con questo comportamento, bene sì, la prima volta ero un buono che ha consentito in qualche modo al pericolo di subire una fregatura, e poi ci è rimasto fregato. Bene, arrivi la seconda volta, ok, arrivi la seconda volta e io sono ancora un buono, ma smetto di essere un coglione, smetto di farmi fregare da chi buono non è, perché sostanzialmente è quello, no? Buoni o cattivi, il Tao e tutti questi dualismi, sì, si può anche riassumere così, però si semplifica molto, ma insomma è così. E allora, cioè, io non sto mica qua, io ma nemmeno voi, stiamo mica qua a farci menare il campellaia, come si suol dire. Se una persona si merita i pesci in faccia, che pesci in faccia siano, e che bei siluri, boom, sbattuti forte, perché quelli arrivano addosso e fanno male, e quando hanno fatto male una volta, quelli lì se lo ricordano, se lo ricordano. Bene, dice, allora hai da rendermi 10 euro? No, cioè ti devo rendere, no, non importa, non importa, non importa. No, importa, riprendi questi 10 euro. Sono 10 euro un pezzo di carta colorata che non bastano nemmeno per una pizza sostanzialmente. Bene, dice, allora, se te ti sei comportato così, ma è un esempio che non esiste, è proprio una cosa così. Bene, dice, no, non importa, non me li rendere, non li voglio. No, siccome te per questi 10 euro hai smesso di parlarmi, ad esempio, ci importano. Cioè, allora, te vuoi fare il buono, vuoi fare quello superiore, vuoi fare quello, ma in realtà sei piccolino e arriva il pesce, e arriva il pesce in faccia. Perché non solo ti riprendi 10 euro, ma ti prendi anche una dose di vaffa. Perché è chiaro che sia così. Perché quando uno se lo merita, se lo merita, e non c'è niente da fare. Perché se quella persona ha pensato che te lo avessi voluto fregare per 10 euro e per questo motivo magari non ti parla più, bene, allora ciao, evidentemente c'è da dire ti sei sbagliato pensando con chi avevi avuto a che fare fino a quel momento, e ciao. Ma come questo esempio ce ne sono tantissimi di esempi di orgoglio, che la gente tira fuori l'orgoglio e per orgoglio non fa una cosa, e per orgoglio fa un'altra cosa, e cerca di spostare le opinioni e mandare le cose da una parte piuttosto che dall'altra, perché secondo il suo insindacabile e luminescentissimo giudizio personale ha assolutamente ragione, infischiandosi assolutamente magari di fatti contingenti alla questione o di quello che può in un certo momento, in un certo contesto, aver pensato, provato e tentato di fare magari un'altra persona. Bene, allora questa gente qua che fanno i buoni, come dicevano i furbetti del quartierino, fanno i froci col culo degli altri, ma chiaramente non è questa un'offesa contro nessuno, ci mancherebbe altro, è solo una citazione per far capire però che funziona così. Ma so come quelli che fanno i buoni, si dice faccio il concerto per beneficenza e poi chi va a vedere il concerto paga un biglietto, e vabbè, uno dice vabbè, c'è la beneficenza, ci mancherebbe altro, e poi l'artista ha preso il cachet intero. Cioè, allora te che beneficenza hai fatto? Te hai fatto la beneficenza o soldi nostri? E cioè, allora è facile così, riesce a tutti. Bene, allora sarebbe da dirgli, allora caro il mio cantante di questi stivali, chiunque sia, perché comunque lo fanno in tanti, ai tuoi concerti, ai tuoi dischi non li compro più, ai tuoi concerti non ci vengo più, perché non sei una persona che vale, perché le cose non vengono fatte con il cuore. Ma questo, diciamo, per i mainstream è come quello che fa l'attore, dice sì, vado a fare per beneficenza sta cosa, poi quello si piglia il cachet. Bene, sì, ma io comprendo che il lavoro si paghi, ci mancherebbe altro, il lavoro si paghi, ma allora non dire che è per beneficenza, perché non è per beneficenza. In questo modo dici una cosa per fregare la gente, per avere più ritorno. Te fai la beneficenza e la fai alla zitta. Cioè, da questo punto di vista, e è secondo me encomiabile uno come Vasco Rossi, che lui si è sempre rifiutato di partecipare a concerti benefici, cose benefiche, qualsiasi altra cosa, i concerti gratis ad esempio. Cioè, lui si è sempre rifiutato di partecipare, perché ha sempre detto io beneficenza quando la voglio fare, identifico a chi farla a favore e poi la faccio di tasca mia. Poi per il mio lavoro di cantante mi pagate, è il mio lavoro, è chiaro, e questo è lineare, perché chiunque è corretto che sia pagato per il lavoro che fa, che sia l'operaio, che sia il commerciante, che sia il cantante, che lo stipendio sia basso o sia alto, non c'entra niente, non è questo il problema. Perché d'altra parte nessuno, cioè, il mondo va così, è vero, un cantante magari prende 500.000 euro per un concerto, è tanto, è una cosa allucinante, esorbitante, è vero, però il mondo è così, se ti sta bene è così, se non ti sta bene non ci vai al concerto. Se, voglio dire, se a nessuno stesse bene nessuno andrebbe a concerti e si smetterebbe di fare queste cose. Quindi, per tornare all'argomento, è preferibile smettere di fare i buoni per forza, i buoni per sempre, i buoni a prescindere, no? C'è da essere corretti e giusti a prescindere, il più possibile giusti, il più possibile equilibrati, perché altrimenti ci si espone assolutamente a delle fregature allucinanti durante la vita e pure anche agli sberleffi poi del giorno dopo. Comunque, cari amici del Vagabondo, anche oggi è arrivato il momento momento della rubrica Il Cafone Vagabondo. E se la settimana passata abbiamo avuto un cafone vagabondo esclusivamente femminile, con il famoso rossetto sulle tazzine del caffè, questa volta abbiamo un cafone assolutamente maschile, vale a dire il cafone del bagno. Cosa succederà mai? Beh, cosa succede nei bagni? Tutti lo sappiamo. I maschietti vanno a fare le pipì nei bagnetti dei bar, dei ristoranti, nei bagni pubblici. E te entri nel bagno dei maschi, talvolta anche quello delle donne può capitare, ma a volte ci infila un maschio per fare la pipì perché magari non la regge e non vuole fare la fila. Ma nei bagni dei maschi è una guerra, cioè è proprio un lago. Cioè, uno entra, se c'ha un attimino i pantaloni un po' più lunghi che un po' gli toccano terra, minimo se li asciuga un po' la pipì di tutto il mondo. E forse i risvoltini sono nati per questo, per evitare di entrare nei bagni con i pantaloni lunghi e quindi sporcarli. Però attenzione, perché se ci entrate con un passo troppo deciso, pestate la pozza di pipì di quelli che sono stati lì prima di voi e vi schizzate le caviglie. Quindi forse conviene avere i pantaloni lunghi, quindi risvoltini di conseguenza bocciato anche per quanto riguarda entrare nei bagni pisciosi. Però ragazzi miei, quando andate al bagno, anche io quando andiamo al bagno, non è così importante fare disegni con il getto di urina che vi scappa oppure di centrare lo porta scoppettino per scoppettare il cesso quando qualcuno fa qualcosa di diverso dalla pipì. Non è così importante, un po' di rispetto per chi comunque viene al bagno dopo di voi, perché chiaramente se anche voi entrate in un bagno che è pulito siete molto più felici che entrare in un bagno piscioso. E qui questa è la puntata del non politically correct, quindi qualche parola me la scuserete, mi immagino, mi auguro, e un po' di rispetto quindi per gli altri che verranno dopo di voi ad usare il bagno, e soprattutto anche per chi tutti i santi giorni prende un cencio, una scopa e lo deve pulire, perché chiaramente non fa piacere a nessuno pulire la piscia di chi che sia. Bene, cari amici del Vagabondo, la puntata di oggi termina qua. Io vi ringrazio per avermi ascoltato anche oggi fino alla fine. Vi faccio gli auguri di una serena settimana ventura e nel frattempo attenzione a dove fate la pipì, cari maschietti, e siate saggi!